Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 680. Una puntata veramente ricca di novità discografiche dall'Italia e dall'estero, con jazz strumentale ma anche con jazz vocale. Ed iniziamo proprio con quest'ultimo, con una nuova cantante, nuova per modo di dire, nel senso che è una nuova stellina del panorama jazzistico italiano. Si tratta di Carla Casarano, un nuovo talento molto interessante che la Took Music la pone all'attenzione del grande pubblico con il suo primo singolo che si intitola Al Risveglio. Ci sono un paio di pezzi, questi due pezzi sono veramente molto belli e mettono in evidenza le qualità di questa giovane brava cantante. Io, anche se può sembrare strano, ma insomma ho scelto, come si suol dire, il lato B di questo primo singolo. La musica è del contrabbassista Marco Bardoscia, il titolo è I Am a Dreamer e secondo me è un pezzo veramente particolare che esalta le grandi doti di Carla Casarano. Buon ascolto. You Because I love you. You and me. You with me. Questa era la straordinaria voce di Carla Casarano, veramente una cantante da prendere in seria considerazione, un nuovo talento veramente molto interessante, bravissima nei momenti in cui si espone durante gli slow e straordinaria negli acuti, nei momenti di grande potenza. E noi ci siamo ascoltati l'interpretazione di I Am a Dreamer, una composizione originale di Marco Bardoscia, tratto appunto dal suo primo singolo intitolato Al risveglio, pubblicato dalla Took Music. Bene, dopo la brava Carla Casarano è il momento di andare ad ascoltare una straordinaria orchestra, la Color Jazz Orchestra. La Color Jazz Orchestra che grazie al lavoro sicuramente molto interessante, molto accurato del trombonista Massimo Morganti, ha realizzato una collaborazione con Ain Inserto e fortemente voluto appunto da Massimo Morganti qui in Italia. Il grande musicista ha collaborato con la Colored Jazz Orchestra e ne è nato un progetto discografico veramente molto bravo, molto bello. Colored Jazz Orchestra plays the music of Ain Inserto, Home Away from Home. Il gruppo, la grande orchestra, vede appunto Ain Inserto come compositore di tutti i pezzi che vengono eseguiti dall'orchestra e come conduttore della stessa orchestra, e il la formazione vede Simone Lamaida al sax alto, Maurizio Muscatelli al sax alto, Filippo Sebastianelli al sax tenore, Antonangelo Giudice al sax tenore, Marco Postacchini al sax baritono, e poi abbiamo Giorgio Caselli, Luca Giardini, Giacomo Uncini, Samuele Garofoli e Jeff Cleason alle trombe, Massimo Morganti, Carlo Piermartire, Luca Pernici e Pierluigi Bastioli al trombone, Pierluigi Bastioli al trombone basso, Emilio Marinelli al pianoforte, Luca Pecchia alla chitarra, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria. Come avete sentito, nomi di spicco del jazz italiano che formano questa Colored Jazz Orchestra, diretta appunto in questo caso dal grande compositore musicista Ain Inserto. Ascoltiamoci quindi You Are Leaving But I Just Got There. Buon ascolto quindi con la Colored Jazz Orchestra diretta da Ain Inserto. Oh, Bene, questa era la felice accoppiata della Colors Jazz Orchestra insieme a Ain Inserto, che in questo caso l'ha diretta. Una bella pubblicazione discografica, questa Colors Jazz Orchestra plays the music of Ain Inserto, Home Away from Home. E noi ci siamo ascoltati questa, scusate, questa composizione originale di Ain Inserto intitolata You Are Leaving But I Just Got There, e un'orchestra, come avete sentito, molto dinamica, molto interessante, ricca di personalità straordinarie, per cui ad ogni assolo si può godere della grande professionalità, della grande esperienza dei musicisti che la compongono. Un pezzo molto vivace, ricco di bella energia, equilibrato tra il rispetto della grande tradizione e anche istanze della contemporaneità. Veramente una bella esecuzione quella della Colored Jazz Orchestra, che con questo disco si mette all'attenzione anche del pubblico internazionale. Andiamo avanti con il trio Japtal. Trio Japtal che ha realizzato proprio in questi giorni il disco che presenta il trio e porta il titolo proprio con il nome stesso del gruppo Japtal. Il trio è formato dal grande chitarrista Max Amazio, Carlitos Perez alle percussioni e Mauro Perigozzo al pianoforte. Un trio di ottimi professionisti che vivono il jazz con l'apertura della world music. Si parte da un jazz che tiene di conto anche delle tradizioni nazionali. Max Amazio, pur vivendo e operando qui in Toscana, a Pisa, è di origini napoletane e porta nel cuore la musica napoletana, la musica mediterranea, e nel suo jazz è una musica che riaffiora sempre, che è sempre in qualche modo presente. Ma in questo gruppo appunto c'è anche una presenza che porta ad altre atmosfere, ad altri profumi, la presenza per esempio di Carlitos Perez alle percussioni, e il CD è gradevolissimo, pieno di atmosfere particolari, interessanti, vissute sempre con grande professionalità dai tre musicisti, con dei bellissimi assoli, con dei fraseggi molto godibili, che fanno di questo progetto discografico un punto di riferimento del jazz di questo tempo, di questo momento, molto interessante. Iniziamo quindi ad ascoltare questa composizione originale di Max Amazio, il pezzo intitolato Terra Bruna. Buon ascolto con il trio Japtal. Thank you. Thank you. Questo era il gruppo di Japtal, questo trio formato dal chitarrista Max Amazio, poi dal pianista Mauro Perigozzo e dal percussionista Carlitos Perez. Il pezzo che ci siamo ascoltati era Terra Bruna, una composizione originale di Max Amazio, che come avete sentito è uno straordinario chitarrista, oltre che un valido compositore, un pezzo dal grande respiro, dagli spettacolari voli creativi, nello stesso tempo anche dalla pregnanza, dalla drammaticità in certi momenti del sentire, quindi un pezzo vissuto con grande sensibilità e supportato dalla complicità musicale molto interessante di tutto il trio, il pianista Mauro Perigozzo, molto interessante nei suoi assoli e sempre valida, precisa e stimolante la presenza ritmica di Carlitos Perez alle percussioni. Veramente un ottimo trio, questo Japtal, che si presenta proprio con questo disco d'apertura che porta il nome del gruppo, Japtal. Bene, adesso proseguiamo con un altro gruppo di musicisti italiani che incontrano grandi musicisti americani. Il gruppo si chiama Principal Sound, formato da Dario Chiazzolino alla chitarra, Gianni Branca alla batteria, Pino Deri al basso, e insieme a loro suonano Bob Minzer al sax, Russell Ferrante al pianoforte, alle tastiere, e Jimmy Heslip al basso. Il CD è intitolato Lost in the Jungle e noi da questo bel CD di presentazione del gruppo ci ascolteremo proprio il pezzo d'apertura, che è intitolato Jump in a Dream. Buon ascolto. Bene, questa era la musica di Principal Sound, il gruppo formato da Dario Chiazzolino alla chitarra, Gianni Branca alla batteria, Pino Deri al basso e insieme a loro Bob Minzer al sax, che abbiamo ascoltato in pregevoli assoli, e poi Russell Ferrante al pianoforte, alle tastiere, e Jimmy Haslip al basso. Un ensemble veramente molto interessante e stimolante, che riesce a esprimere grande qualità musicale, grande sensibilità, con composizioni molto ricche di intuizioni felici dal punto di vista compositivo, e con delle performance personali sempre molto stimolanti, che tengono l'ascolto sempre molto attento. Ricordo che il titolo del CD è Lost in the Jungle, e noi ci siamo ascoltati Jump in a Dream, il pezzo che apre l'album. Il CD è stato pubblicato da Too Cool Records. E adesso proseguiamo con un musicista interessante, che si presenta per la prima volta in Anima Jazz. Si tratta di Rotem Sivan con il suo trio, un trio formato appunto da Rotem Sivan alla chitarra, Haggai Cohen Milo al contrabbasso e Colin Stranahan alla batteria. E stasera ci potremo ascoltare un'originale interpretazione di Angel Eyes. Buon ascolto quindi con il Rotem Sivan Trio. Thank you. Bene, questa era la musica che ci ha offerto il chitarrista Roten Sivan con il suo trio, un trio formato appunto dallo stesso leader del gruppo, Roten Sivan alla chitarra, a Guy Cohen Milo al basso e Colin Stranahan alla batteria, un chitarrista contemporaneo, coraggioso, interessante, incisivo, veramente capace di reinterpretare pezzi standard con un'intuizione d'arrangiamento veramente stimolante, interessante, che ne rinnova completamente le capacità d'ascolto. Un grande professionista dotato di grande tecnica ma anche di straordinaria sensibilità. Noi ci siamo ascoltati l'interpretazione di Angel Eyes tratta dal CD A New Dance, Roten Sivan Trio. E adesso proseguiamo con un cantante, si tratta di Lily Frost, che ha realizzato un nuovo progetto discografico molto interessante, sicuramente godibile, e questo progetto discografico è intitolato Too Hot for Words, l'ha realizzato con un ensemble ricchissimo di musicisti che si susseguono nelle varie tracce, e noi stasera ci potremo ascoltare Ethan Wright. Buon ascolto quindi con Lily Frost. Thank you. Bene, questa era la voce di Lily Frost. Lily Frost che ha realizzato questo nuovo CD intitolato Too Hot for Words e ci ha fatto ascoltare It Ain't Right, una composizione di Joseph Mayer e Bob Rothberg, interpretata con grande naturalezza, con grande padronanza di linguaggio, una capacità espressiva capace di interpretare sempre molto bene sia gli slow che i fast con freschezza e naturalezza. Salutiamo la cantante Lily Frost ed andiamo ad ascoltare un ottimo musicista italiano. Si tratta del pianista William Greco. William Greco ha realizzato per la Working Label un nuovo CD intitolato Corale e l'ha realizzato insieme al conosciuto bravissimo contrabbassista Marco Bardoscia, all'altrettanto bravo e conosciuto Massimo Manzi, un disco nel quale sono presenti anche il bravissimo Raffaele Casarano al sax e partecipa a questo disco anche la bravissima Carla Casarano che ci siamo proprio ascoltati all'inizio della trasmissione. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è proprio quello che dà il titolo all'album, intitolato Corale, ed è chiaramente una composizione originale di William Greco. Buon ascolto. E ci siamo ascoltati il pianista William Greco con questo straordinario gruppo formato da Marco Bardoscia al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria e special guest in questo pezzo il grandissimo Raffaele Casarano al sax. In questo pezzo è presente anche Carla Casarano alla voce. Un pianista, William Greco, veramente bravo, tecnicamente molto preparato, con queste sue intuizioni compositive di gioiosa ampiezza, di freschezza e nello stesso tempo di grande apertura, con una coscienza del grande passato ma anche un piede fermo nel contemporaneo, nel presente. Un bel equilibrio musicale che si fa apprezzare non solo in questo pezzo, che è quello che poi dà il titolo all'album, Corale, ma in tutti i pezzi di questo progetto discografico pubblicato dalla Working Label. Quindi un pianista da tenere d'occhio, uno tra quelli che fanno del jazz italiano un jazz ormai più secondo a nessuno da molto tempo, con grandi personalità che potremmo sicuramente esportare e con grande orgoglio in tutto il mondo, proprio per intanto per la grande preparazione tecnica, ma anche per le idee, per la capacità di vivere la musica in un modo che riporta in qualche modo le radici in Italia, pur mantenendo questa fede al jazz che nasce negli Stati Uniti. Però sicuramente noi riusciamo a fare un jazz italiano che ha le ampiezze, i colori, i profumi del nostro Mediterraneo e la coscienza di un grande background artistico, musicale, culturale che tutto il mondo ci invidia. Questo era l'ultimo pezzo della serata, Corale, tratto dall'album omonimo pubblicato dalla Working Label a cura di William Greco. Prima di concludere, un appunto per quello che riguarda il Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Molti sono i cantanti che mi chiedono come si fa a partecipare a questo festival che ogni lunedì propone 10 artisti. Ogni anno le selezioni si chiudono il 15 di settembre, quindi ogni cantante che vuole partecipare, vuole proporre il suo repertorio per la partecipazione al festival, può inviare propri CD alla nostra redazione. Sul sito di Anima Jazz c'è la mail per i contatti, in più su Facebook ci sono la pagina dei miei programmi, il gruppo dei miei programmi, i miei due profili, e quindi è possibile contattarmi per poter inviare questo materiale. Sarà dato l'indirizzo per la spedizione di CD fisici oppure appunto la stessa mail per l'invio di CD elettronici. Però chi invia materiale adesso non può essere inserito nel festival nell'edizione di quest'anno, perché appunto è stata chiusa il 15 di settembre. Il festival durerà fino a gennaio inoltrato. Tutto il materiale che ci perviene dal 15 di settembre in poi viene preso in considerazione per l'edizione seguente. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz. 1, 2, 3.